15 marzo del 2023 in onda prove tecniche di trasmissione da ora sino alle 22:30. Concluderemo le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa perché 25 o'clock oggi non andrà in onda. www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via web. Nel sito si possono trovare anche le varie modalità di sottoscrizione per questa radio. E a breve dovrebbe ripartire una campagna di tesseramento, di abbonamento, come abbiamo fatto negli ultimi anni. Qualche saluto veloce, c'è Maya in Sardegna, fedelissima, Tiziano Farinacci di Pi Greco, un saluto a Daniele Santa Giuliana, Doriana Panico a Taranto, Anna qui a Roma, Alessandra Mentana. Francesco Cornello in quel di Bergamo, saluto a Massimo, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Ernesto Brusati, Panico da palcoscenico da Varese, Cecilia Miradoli del progetto Pindar. E poi un grosso saluto anche a Marco Milanesio, Alberto Cripper, Antonio Zoviet di Omicidio, in quel di Firenze, Like Awake, Storia Ambient qui di Roma, Orlando Furioso. Saluto anche Valentina che, se non ricordo male, sta all'Aquila. Venerdì scorso hanno suonato qui a Roma e un ottimo e suggestivo live. Si chiamano Bosco Sacro, uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni, sospeso tra ambient, doom metal, post rock e anche vaghe tracce di trip hop. L'esordio si chiama Gem e quindi anche questa sera un passaggio. Nello specifico ci ascoltiamo Be Dust. Stasera quindi un secondo passaggio riguardante Bosco Sacro con il loro esordio dal nome Gem. L'addizione musicale questa sera era prevalentemente votata al post rock, ed è vero anche che ci sono delle reminiscenze vagamente gotiche anche nel resto dell'album. Quattro personaggi in gioco anche con altri progetti, li ricordiamo: la bella voce di Giulia Parin-Zecchin, già apprezzata come Giulinco. Abbiamo Francesco Vara e Luca Scotti, chitarra e batteria come Tristan de Cugna. E Paolo Monti alla chitarra come The Star, Pillow e Daimon. Forte il potere evocativo, quasi onirico. Un immaginario che già dal titolo del progetto Bosco Sacro lascia aperte un certo tipo di suggestioni. Si sono giunti Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster. Da Harlem, Olanda, Simona della Morte, Moschita de Miramar. E adesso c'è anche Giuseppe Verticchio, progetto romano, Nim e Lam, che ci siamo ascoltati e che ascolteremo in prospettiva qui in questi spazi di prove tecniche di trasmissione. Chiamiamo in causa Raffaele Pezzella in quel di Napoli attraverso la sua etichetta Nesplay Sounds Group Label, famosa da queste parti per i suoi viaggi musicali in tutti i continenti di questo globo. E questa volta ci delizia con questa compilation dedicata alla Grecia più sotterranea, che porta il nome di Anthology of Contemporary Music from Greece, con il sottotitolo di Greek Music Survey. Artisti sicuramente non celebri che fanno parte di questa scena comunque validissima. La Grecia ci ha dato molti talenti nel passato. Questa sera ci ascolteremo Morket con un brano che in realtà non ha un titolo, quindi Untitled. E poi un altro progetto dal nome Conjecture con un brano dal nome Sinus. Esponenti dell'avanguardia ellenica, tirati fuori dal cilindro magico di Raffaele Pezzella in questa Anthology of Contemporary Music from Greece. Morket con le stratificazioni quasi al limite del death ambient, decisamente ipnotico, e invece le varianti più sperimentali, un po' a metà effettivamente tra Nars Witwound e la tromba aliena del nostro Flavio Di Pipit, lo cito anche perché all'ascolto, E sentite come varia, come dovrebbe essere sempre una compilation, questo prossimo artista che ci ascolteremo mercoledì prossimo, invece decisamente più artefice di un'elettronica pulsante, questo Andreas Monopolis, che ci ascolteremo appunto tra una settimana. Buonasera anche a Wurnus Island, l'industrial piemontese che non manca mai all'appello. E invece noi andiamo a Bologna da Giorgio Falcone, artefice del progetto Curehead K, all'esordio con Into the Labyrinth. Anche qui sospeso tra rarefazioni, ma anche percorsi più tribal elettronico. Percorso tribale elettronico che viene intrapreso anche nell'ultima traccia che ci ascoltiamo questa sera, che porta proprio il nome dell'album, quindi Into the Labyrinth. Eccellente questo ordito musicale, questa alternanza tra evanescenza e rincorse tribali ed elettroniche. Un finale a salire veramente alla grande, Into the Labyrinth, che dà il nome all'album e che chiudeva per l'appunto questa opera uscita nel 2022, un'opera d'esordio di Cureheart K di Giorgio Falcone, che vado a salutare. Peraltro gradito da molti di voi, compreso Giuseppe Verticchio, ed effettivamente è sulle corde anche di Nimmi, di Lam, e perché no, consigliamo anche una collaborazione tra i due, penso che verrebbe qualcosa di interessantissimo. Intanto saluto Patricia Carpi, che è andata veramente vicino alla realtà, correndo tra gli alberi effettivamente. Non so se lei conosce la copertina, perché la copertina è proprio un qualcuno che passeggia in un bosco pieno di nebbia, una bellissima copertina. Into the Labyrinth. Ce lo siamo gustato in molti dei suoi passaggi queste settimane. Speriamo dunque in una prossima opera che chiaramente noi amplificheremo da queste frequenze. Andiamo in Nord Europa, andiamo in Islanda, e ultimamente l'Islanda la analizziamo sfruttando il secondo lavoro degli islandesi Aska. Ut vid Sandingra è questo l'album che esce per la teutonica Galat Corro, etichetta fondata da Ausa Rafna, un'etichetta che io apprezzo da moltissimi anni attraverso i vari artisti che l'hanno percorsa e che la affollano anche a tutt'oggi. Ci ascoltiamo Out of the Sandingra, numero 4, numero 5 e anche Ad degli Asialfunser, che è la traccia conclusiva. impronta decisamente riconoscibile, quella della Gala Corro, questa etichetta tedesca, anche nel caso dell'islandese Aska. Ossia Christopher Pyle Bidarson. All'attivo due lavori, appunto questo del due anni fa, questo Ut Vid Sandingra, ultra malinconica Dark Wave. Che qualcuno ha anche definito angst pop. Quindi anche con suggestione di scurissimo industrial sparso qua e là, non soltanto in questo disco, ma anche negli innumerevoli progetti che compongono questa label. Permettetevi anche una autocitazione, ringrazio ancora chi mi manda gli auguri per il mio recente compleanno che è stato ieri. Ringrazio tutti. Invece noi andiamo avanti. Chi sta seguendo Disorder in queste settimane sa che stiamo mandando, anzi abbiamo mandato qualcosa di Laibach, Love is Still Alive, un mini album che li vede un approccio in parte synth pop, in parte diciamo più leggero rispetto alle loro consuete sonorità. Ma il 2023 ci ha anche regalato un album che ce le restituisce nella loro vera dimensione. Questo album è uscito proprio il 1 gennaio del 2023. Pensate un po' all'ironia anche di questi Laibach. Si chiama Sketches of the Red Districts. Un album che ha anche una valenza storica, giacché va ad analizzare una fase veramente buia della Slovenia, pre, diciamo, Federazione Jugoslava. E quindi ci inoltriamo nei rigori Laibach, ricordiamo, da Ljubljana. Laibach in realtà è il vecchio nome proprio asburgico della capitale slovena. Questo album si apre con 1 giugno 1924 e poi Glück auf. Severní i zjáme domov. Glück auf.